La gallina e la perla, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Razzolando una gallina una perla ritrovò, una perla vera e fina che all'orefice portò. Giudicando con ragione che una perla alla fin fine non è poi quel tal boccone che conviene alle galline. Tale qual quell'ignorante che uno scritto ereditò, di buon cuor con un sonante ducatone barattò. Giudicando con ragione anche lui che all'occorrenza un sonanto ducatone vale tutta la sapienza. Fine della favola La gallina e la perla. Questa registrazione è di dominio pubblico.